la rivincita delle bionde, oltre la cultura dello stereotipo. E buongiorno a tutte e a tutti ascoltatrici e ascoltatori e ben ritrovati su una nuova bellissima puntata della Rivincita delle Bionde. E allora, come ogni lunedì, vi terremo compagnia durante la vostra pausa pranzo. E noi siamo le solite biondissime Erika Verdecchia, che sono io, e Carlotta Calarese. Buongiorno Carlotta. Buongiorno carissima, buongiorno a tutti e a tutte, ben ritrovati appunto sulla Rivincita delle Bionde. Sì, oggi tra l'altro è una splendida giornata. L'ultima puntata è stata un po' particolare, infatti era il primo speciale della Rivincita. Ricordiamo infatti che una volta al mese faremo una puntata un po' fuori dal comune, dal tema, anche se non troppo, ovvero appunto uno speciale. Adesso ricordiamo anche che se volete scriverci in questo momento potete farlo tramite il numero 333 180 9494, tramite sms o anche su WhatsApp. Oggi il protagonista di questa nuova puntata bionda è la poesia visiva. Sì, quindi ritorniamo di nuovo a parlare di poesia e riprendiamo un po' il filo conduttore della scorsa puntata. In questo caso però parliamo di una poesia particolare che è collegata anche con il segno e l'arte visiva. Infatti si tratta proprio della poesia visiva, che fu una corrente di sperimentazione degli anni 60 e 70, che però poi si è protratta anche fino ai giorni nostri. Ma la protagonista vera e propria di questa puntata sarà una delle esponenti della poesia visiva, ma non solo, ovvero Ketty La Rocca, che tra l'altro è esposta in una mostra che si sta tenendo in questi giorni. Sì, infatti le opere di questa artista saranno presenti insieme a tantissime altre opere di moltissime artiste alla mostra a Roma, all'Istituto Centrale per la Grafica. Il nome della mostra è Magma, il corpo e la parola nell'arte delle donne tra Italia e Lituania dal 1965 ad oggi, ma ne parleremo meglio dopo un breve stacco musicale. I woke up this morning and the sun was gone. Turned on some music to start my day. Then lost myself. hiding my music, forget the day, and dream of a girl I used to know. I closed my eyes and she slipped away. Abbiamo appena ascoltato More Than a Feeling dei Boston. Nota come sigla di Scrap. Esattamente, qui su La Rivincita delle Bionde. E a proposito di musica, visto che per la scorsa puntata abbiamo ricevuto parecchi complimenti per la playlist, non ce l'aspettavamo. Assolutamente no. Non ce l'aspettavamo. E vi diamo una notizia, ovvero che pubblicheremo sempre sulla nostra pagina Facebook, ma anche su quella di Instagram, la playlist di tutti i brani che inseriamo in ogni puntata. Ormai ti ho plasmato, comunque anche tu sei diventata una social addicted doc. Sì è vero. Tra l'altro, oltre questo, c'è una nuova novità, scusate il gioco di parole, ovvero inseriremo una playlist anche su Spotify. La stiamo preparando, sarà la playlist della Rivincita delle Bionde, dove appunto troverete tutti i brani di tutte le puntate, ma non solo, perché esatto, ormai le playlist, tra l'altro, dei programmi, tutti i programmi di Radio Città Fucico sono già disponibili su Spotify, quindi se volete scoprire come ascoltarli potete aprire il link che abbiamo condiviso sia sulla pagina della Rivincita sia sulla pagina della radio, ovviamente. Perfetto, ma adesso torniamo a parlare del centro di questa puntata, ovvero della poesia visiva. La poesia visiva è un movimento artistico e letterario nato all'interno del clima delle neoavanguardie italiane, quindi negli anni 60, e appunto si tratta di una corrente a cavallo tra la letteratura e l'arte visiva. Anche se in realtà le ricerche verbo-visive iniziano a svilupparsi in realtà nel secondo dopoguerra, ponendosi diciamo come uno strumento di critica alla cultura, alla società e al linguaggio, attraverso il quale invece si esprimeva la nuova realtà modernizzata, industrializzata, appunto, del secondo dopoguerra. Esatto, e questo dibattito si è protratto poi anche negli anni 60, che sono appunto gli anni del dibattito intellettuale, e dove si vede una partecipazione attiva e protagonista degli artisti, dei letterati, degli intellettuali alla vita politica, culturale e sociale. I neoavanguardisti italiani, perché ricordiamo che è un movimento italiano che però poi è esploso simultaneamente e contemporaneamente in tante altre parti del mondo, si pongono in modo critico nei confronti delle produzioni artistiche dell'epoca. E tra l'altro, tra i neoavanguardisti italiani ricordiamo personaggi come Umberto Eco, Amelia Rosselli, Edoardo Sanguinetti, insomma, che noi tutti conosciamo. Questi intellettuali si riunivano spesso in gruppi o in collettivi, come ad esempio il gruppo 63, il gruppo 70 di Firenze o i Novissimi. Sì, tra l'altro il movimento, ricordiamo che nasce a Firenze, poi ovviamente si andrà, come abbiamo già detto, sviluppando, e ricordiamo per esempio anche un gruppo di Genova nato grazie alle sperimentazioni di Luigi Tola e appunto del suo gruppo studio, e nascono in quel contesto le poesie murali, e contemporaneamente ovviamente si sviluppa anche la ricerca verbo-visuale di Martino Berto. Esatto, e tutte queste neo-avanguardie si ispirano, e lo dice anche il loro nome, alle vecchie, tra virgolette, vecchie avanguardie, quindi quelle dei primi 50 anni del Novecento, ovvero il futurismo, il dadaismo, il surrealismo, e in particolare si concentrano sul linguaggio, vogliono decostruire, analizzare la parola e in generale la comunicazione anche attraverso i nuovi mezzi di comunicazione. Sì, infatti i poeti visivi si inseriscono proprio in questa cornice, in questo contesto, e si concentrano soprattutto sulla comunicazione verbale, ma anche non verbale, prediligendo quindi immagini, parole, segni, corpo. Insomma, questo movimento al giorno d'oggi, anche se poco conosciuto dai più e dalla massa, ha raggiunto il suo apice tramite, appunto, come ha già detto Erika, nuovi mezzi di comunicazione, come appunto il computer, internet. Comunque, noi abbiamo raggiunto Benedetta Carpi del Resmine, che è la curatrice della mostra che si sta tenendo adesso a Roma, quindi ascoltiamo le sue parole affinché ci possa spiegare meglio cos'è la poesia visiva. Quando nasce la poesia visiva e come può essere definita? Nasce, se c'è un periodo da attribuire alla poesia visiva, inizia all'inizio degli anni 60 con il gruppo fiorentino e che poi ovviamente si è espanso un po' in tutta Italia. Quali sono le caratteristiche di questo movimento? Le caratteristiche di questo movimento è prendere praticamente il linguaggio dei nuovi media che stavano ovviamente aprendosi al mondo, riformularli attraverso nuove impostazioni anche diciamo grafiche e per poi ovviamente trasformarle di significato, e questo è fondamentale. Perché la poesia visiva parte dal presupposto che il significato e il significante vanno ovviamente di pari passo, però ovviamente il mezzo utilizzato viene completamente distorto, diciamo, per portarlo al significato finale. Catholic girls, they never confess. Catholic girls, I got white boys. Ed eccoci tornati sui 103.1 di Radio Città Fuceco per una nuova puntata della Rivincita delle Bionde. Ricordiamo il numero 333-180-9494 per poterci scrivere e contattare tramite SMS e anche WhatsApp. Ricordiamo anche che potete tenervi aggiornati sulle nostre pagine Facebook ed Instagram, ma adesso appunto ritorniamo a parlare di poesia visiva e in realtà non possiamo dilungarci poi più di tanto, quindi adesso passiamo ad un'altra protagonista della nostra puntata, che è Katy La Rocca, ovviamente esponente appunto di questo movimento, anche se in realtà lei ha usato tantissimi strumenti, non concentrandosi semplicemente solamente su quella che definiamo appunto poesia visiva, ma è stata un'artista poliedrica. Sì, esatto, un'artista proprio a 360 gradi. E Katy, che tra l'altro si chiamava Gaetana, il suo vero nome, sì, è Gaetana. Katy è il soprannome. Esatto, detta Katy La Rocca, nasce alla Spezia nel 1938 e muore a Firenze nel 1976. E inizia il suo percorso artistico lavorando, quindi abbiamo detto, nell'ambito della poesia visiva, in particolar modo nel gruppo fiorentino dei 70, e si concentra soprattutto nell'analisi dello stereotipo della donna offerto dai media dell'epoca e quindi anche e soprattutto dalla pubblicità. E infatti i suoi primi lavori sono proprio dei collage poetico-visivi che cercano di andare a criticare il sistema politico, quindi degli anni 60, del 1964-65, utilizzando parole e immagini estrapolate proprio dai giornali, dai quotidiani, e alle quali attribuire un significato nuovo oppure fare emergere il loro vero significato. Un genio comunque. Un genio, no, davvero. Perciò utilizza quindi le immagini dei media, ma anche per esempio quelle dei rotocalchi, dei manifesti, dei cult, dei film cult hollywoodiani, e pone al centro della sua ricerca quindi la società, che secondo lei era dominata e proprio condizionata non solo dal consumismo ma anche proprio dai media, quindi che spesso che i media, diciamo, ci danno una versione della realtà che magari, sì, non è poi così fedelissima. Ecco. Esatto. E un altro elemento che utilizzava era la pop art, e in tutto ciò nelle sue opere visive prima e successivamente nelle sue performance il suo scopo era quello soprattutto di coinvolgere in prima persona lo spettatore. Questa cosa ritornerà poi con la body art, con le performance, e quindi cercare di coinvolgerlo nella decifrazione proprio dell'opera per fargli raggiungere quindi la totale comprensione. E questa sarà una ricerca che lei proseguirà per tutta la sua vita, la sua carriera artistica. Sì, verso la fine tra l'altro degli anni 60 l'autrice spinge il suo sguardo proprio all'interno del linguaggio, dopodiché comincia ad utilizzare il tema delle mani, di cui ne analizza proprio il linguaggio tramite l'uso dei gesti, e unisce al tema delle mani la parola, quasi sempre presente comunque nelle sue opere, però la parola nelle sue opere fanno da cornice a quelle appendici, ovvero le mani, già espressive di per sé, cioè il loro senso viene distorto, no? Viene cambiato, non sono più le parole a parlare ma piuttosto i gesti effettuati proprio dalle mani, quindi è una cosa al contrario. Sì, è una cosa al contrario, si parla con i gesti, si gesticola con le parole. Esatto. L'interesse nei confronti delle mani ha origine nel desiderio di creare un nuovo linguaggio della comunicazione in cui il corpo reale, il corpo fisico, l'espressione dei gesti e la scrittura entrano in un nuovo tipo di rapporto. In questi lavori l'artista si riferisce esplicitamente al mondo femminile, per cui le mani, no, che lei porta in scena, richiamano spesso i gesti compiuti dalle donne proprio in ambito quotidiano. Ricordiamo adesso per esempio una performance di Katy La Rocca. Sì, una delle ultime, infatti del 1975, intitolata Le mie parole e tu, dove a un testo sintatticamente perfetto ma privo di qualsiasi significato si contrappone invece la locuzione intima, vocativa, accusatoria di tu, you, pronunciata appunto dagli studenti, dagli spettatori. Ma noi abbiamo contattato sempre Benedetta, esatto. Quindi adesso ci parlerà meglio lei di Katy La Rocca, quindi ascoltiamo le sue parole. Una delle sue massime esponenti era Katy La Rocca. Possiamo dire qualcosa su questo personaggio, su questa figura? Katy La Rocca poi ha fatto anche molto altro, che non fosse poi legato puramente, cioè lei non la definirei proprio una poetessa visiva pura. Definirei più Lucia Marcucci, Mirella Bentivoglio, piuttosto che Katy La Rocca. Katie LaRock è stata più un'artista poliedrica a 360 gradi, ha realizzato performance, ha realizzato installazioni, ovviamente non la definirei una poetessa visiva pura. Adesso invece entriamo nello specifico in mostra. Quale sarà il percorso in mostra? Quali opere e quali artiste verranno appunto esposte? Sono già esposte perché la mostra si è inaugurata scorso giovedì. Devo dire che sono contenta perché ha avuto un discreto successo. Le artiste in mostra sono 40 tra italiane e lituane. Le artiste italiane sono, le ho citate prima anche, Mirella Bentivoglio, Katie LaRock appunto, Lucia Marcucci, Giosetta Fioroni, Susan Santoro, Simona Weller, ce ne sono insomma tante altre. Paola Mattioli, Libera Mazzoleni, Patrizia Vicinelli, ecco, per parlare di una poetessa visiva. E rieccoci sulla Rivincita delle Bionde, Erika Verdecchia e Carlotta Calarese. Abbiamo parlato di Katie LaRock, ma adesso ricordiamo che Benedetta, insieme a Laima Craivite, scusaci Laima se non sappiamo pronunciare il tuo nome, è la curatrice della mostra che ha ispirato proprio la nostra puntata. E questa mostra si intitola Magma, il corpo e la parola nell'arte delle donne tra Italia e Lituania dal 1965 ad oggi, è ospitata presso l'Istituto Centrale per la Grafica di Roma dal 25 gennaio, quindi è già iniziata, sì. E si protrarrà fino al 2 aprile 2018, quindi romani e non bolognesi, andate a vedere questa mostra. Allora, questa mostra intende approfondire la nascita dell'arte femminista, ma più in generale del movimento femminista in Italia, mettendola a confronto con le origini e le diverse condizioni tradizione, diciamo così, del femminismo invece lituano, che è nato in tempi molto più recenti e in un contesto completamente diverso. Sì. Tra l'altro il titolo della mostra si rifà anche, diciamo, alla materia viva che brucia sotto la terra, cioè alla lava, appunto al magma, come il messaggio che si vorrebbe evincere dalle opere delle più di 40 artiste in mostra. Tra l'altro Magma, la seconda parte del progetto già iniziato nell'aprile del 2017 presso la National Gallery of Art di Vilnius. L'esposizione vuole mettere in mostra, vuole evidenziare come l'utilizzo del corpo e quello della parola vengano per la prima volta impiegati appunto come strumento di lotta per conquiste politiche e artistiche. Esatto, e questa mostra si snoda attraverso un percorso che cerca appunto di mettere in luce i procedimenti, i processi creativi proprio di queste artiste, quindi a partire dagli anni 60, dal 1965, ma protraendosi fino ai nostri giorni, e non soltanto in Italia ma anche in Lituania, come abbiamo ricordato poco fa. Quindi ci saranno delle installazioni, video e immagini delle performance, immagini fotografiche, collage, manifesti, libri, insomma, l'idea che emerge da questa mostra è quella di un'arte totale che, come punto centrale della sua filosofia, aveva quello della critica appunto nei confronti dello stereotipo femminile, ma non solo. E ricordiamo le diverse artiste che sono esposte in questa mostra, come ad esempio Mirella Bentivoglio, Tommaso Binga, che non ci dobbiamo far ingannare dal nome perché è una donna, esatto, anche se si chiama Tommaso, esatto. Ketty La Rocca, di cui abbiamo parlato finora, Lucia Marcucci, ma tante tantissime altre. Esatto. Adesso, per appunto entrare meglio in mostra e conoscere il percorso, ascoltiamo l'ultima parte di intervista a Benedetta Carpi. Parliamo un po' appunto dell'interesse, del fulcro di questa mostra, cioè su cosa vi siete concentrati. Abbiamo detto non solo la poesia visiva, ma qualcosa di più generale. Il titolo della mostra, perché fino adesso appunto non ne abbiamo menzionato, il titolo della mostra è Magma, il corpo e la parola nell'arte delle donne dal 1960 ad oggi, tra Italia ovviamente e Lituania. E Magma è, diciamo, un titolo che si riferisce non solo alla mostra che fece Romana Loda nel 77 con una selezione esclusivamente di artiste donne, ma si riferisce anche alla potenza del movimento femminista e quindi a quella lava che scorre sotto i nostri piedi. È una potenza che ovviamente va al di là del singolo evento, ma è qualcosa che non si spegne, ed è per questo che noi abbiamo fatto riferimento al magma, perché vuole essere qualcosa che non sia esclusivamente riferito al movimento artistico, quindi alla poesia visiva, come lei ha fatto riferimento, ma quindi non vuole in realtà raccontare semplicemente quello che è successo negli anni 60-70, ma vuole essere qualcosa di ancora vivo, ancora attivo, ancora presente. È capitato in un periodo in cui ormai quasi tutti twittano e, diciamo, condividono il Me Too, che è iniziato ovviamente pochi mesi fa negli Stati Uniti. Ricordiamo allora le date della mostra. La mostra si è inaugurata giovedì scorso e sarà visibile fino al 2 aprile di quest'anno, del 2018. Asking to stay long enough for the clouds to fly me away. Oh, it's my time coming, I'm not afraid to die. She cries to the clicking of allora ringraziamo Benedetta Carpi De Resmine per essere stata così disponibile e per appunto averci raccontato meglio riguardo appunto la vita, le opere di Kettila Rocca e anche del movimento della poesia visiva. In realtà noi abbiamo deciso di portare questo movimento e questo artista perché quando la poesia visiva è nata non è stata apprezzata subito, perché ovviamente era utilizzata come strumento, come abbiamo già ripetuto, di lotta e di critica forte ai canoni artistici e politici e sociali anche del tempo, quindi non era per niente valutata in maniera positiva. Poi in realtà in un secondo momento è stata ovviamente rivalutata ed è uno dei movimenti più importanti che ha cambiato proprio il modo di concepire l'arte, secondo me, anche la comunicazione. Sì, ovviamente. E tra l'altro infatti proprio oggi è attualissima perché si interroga sulla comunicazione, sul linguaggio e sui media soprattutto, nella nostra epoca che è quella dei social. Vi salutiamo con la pillola del giorno che non c'entra nulla, esatto. Con tutto. È in realtà non tema, è totalmente slegata perché siamo sempre in un contesto di critica, siamo sempre negli anni 60-70 e si tratta insomma del film che racconta la biografia di Fabrizio De André, Il principe libero, esatto, di Luca Facchini, e noi l'abbiamo visto, ci è piaciuto moltissimo, quindi ve lo consigliamo. E niente, allora non resta altro che salutarvi e darvi appuntamento ogni lunedì dalle 13 alle 13:30 per una nuova puntata della Rivincita delle Bionde, e rimanete sintonizzati e seguiteci appunto sui social, ovviamente. Certo, buona giornata a tutti. Ciao a tutti.